lo annulla la panchina della Juve il gol. Mi deve spiegare chi ha annullato il gol, se è stato Pepe o Giaccherini. Lo voglio spiegato. Sono molto contento e devo ringraziare a tutta la squadra, alla mia famiglia, ai miei amici, a tutti gli sponsor. E già teniamo un altro titolo per la Spagna. Ha perso il Milan, cosa hai pensato? No, non l'ho visto. Ho sentito adesso. Ti dico io che ha perso. Problema di loro. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, convocati, 800 24 00 24, tempo di telefonate, come potete intuire, no? Questa copertina sonora, perché c'è la Confederation Cup, bellissima in Brasile, ma al di là della logistica, degli avversari, degli album, delle figurine, di tanto tam tam mediatico, avversari un po' esotici, specie di gita amichevole, onestamente. Se parliamo proprio di pallone, credo che quello che interessi di più a me, ma penso anche a voi, siano le voci e i rumori di ciò che stiamo, e le telefonate di ciò che stiamo leggendo e sentendo sul mercato. Allora cominciamo subito da qui. Chissà se il City ha già chiamato il Milan per lo scambio El Shaarawy Tevez più soldi ai rossoneri. Lui ha un contratto per 5 anni, voglio dire che gli verrà prolungato, perché lui l'aveva fatto un anno fa, prontamente quest'estate gli abbiamo riallungato per 5 anni, quindi ha un contratto fino al 17 e fra un po' glielo faremo fino al 18, quindi El Shaarawy City veramente, no? Adesso non scherziamo. Vabbè, non scherziamo, diciamo che El Shaarawy guadagna 1,5 milioni all'anno, Tevez 8, ma tutti dicono che è disposto a ridursi l'ingaggio, anche se io devo ancora vedere un giocatore che inchiostra una riduzione di ingaggio. Allora, telefonate, come sapete, tra la Fiorentina e la Juventus, oggetto Jovetic. Penso che la nostra proprietà è stata abbastanza chiara in questo momento. Le situazioni sono così, perciò quello che ha detto la proprietà è legge per noi. No, no, non è sul mercato, nel senso che c'è una parola tra il presidente e il calciatore, che alla fine della stagione avrebbero parlato insieme in base a quello che era stato detto l'anno precedente, però le condizioni sono quelle, se no il calciatore ce lo teniamo ben volentieri. Nessun calciatore come contropartita verrebbe? Assolutamente no. Così dice Pradè, però bisogna vedere se Jovetic è d'accordo, e stando alle dichiarazioni scritte o twitterate, non mi pare, non credo ci sia, anzi non c'è stato bisogno di alzare alcun telefono, di comporre alcun numero telefonico, perché ieri c'era la sfida tra vecchie glorie del Real Madrid e della Juventus. Suppongo che sia girato il nome di Higuain. Higuain è un ottimo giocatore, così come ottimi giocatori sono anche tanti altri compagni di squadra, però come sapete il Real Madrid tra l'altro è in attesa di definire la posizione del proprio allenatore e quindi non ha ancora definito le proprie strategie di mercato, di conseguenza in questo momento Higuain non è sul mercato, anche se certamente è un giocatore importante sia per il Real e nell'ottica anche futura credo per tante altre squadre. Questo era Marotta che dunque glissa sull'argomento Higuain, sul quale invece insistono in molti. Ma questa mattina ci sono anche dichiarazioni di Cavani che qualche telefonata lui o il suo procuratore per lui sembra averla fatta. E mira, io non so sinceramente se offerto o se ofreció algo por mí. Seguramente ser entrenado por como lo dije antes, también por entrenadores de, digamos, de ese nivel como son, ¿no? Pellegrini, como son los técnicos que me han tocado tener y como son los técnicos que se nombran, ¿no? Como Mourinho, y yo creo que sería siempre un placer, ¿no? Poder ser entrenado por uno de esos místicos. E Cavani, Buttalesca, mi piacerebbe essere allenato da Mourinho, che alle 14.30 verrà ufficialmente presentato dal Chelsea, o da Pellegrini, che andrà ad allenare il Manchester City. Secondo me, ma è solo una mia impressione, non sarà così semplice per il Napoli ottenere tutti i soldi che vuole per il suo super bomber. Intanto le dichiarazioni del giorno dicono che Galliani appunto punta su Carlos Tevez, che aveva già praticamente acquistato, come ricorderete, un anno e mezzo fa, prima che il castello di carte venisse soffiato via da Berlusconi, Silvio, Barbara, non importa, con quello scambio con Pato. Leggo anche cose al limite dell'incredibile, come il Real Madrid pronto con 100 milioni ad acquistare Gareth Bale, che mi pare un eccellente giocatore, ma è un esterno sinistro, e se Bale vale 100, Cavani quanto può valere? Questo non lo so. Intanto Mourinho fuori dai microfoni di una conferenza stampa ancora da svolgere, e sentiamo oggi cosa si inventa per il suo ritorno al Chelsea. Certamente molto zucchero per questa squadra che è stata sua, che ha portato alla vittoria di campionato dopo tanti anni, che lo ha cacciato dopo un brutto avvio di stagione, un brutto avvio di Champions League, che poi è riuscita ad arrivare quell'anno, lo ricordiamo, facciamo un po' di cronistoria, con Grant in finale di Champions League senza vincerla, e poi la Coppa di Matteo, che ovviamente è andato via. La Coppa Europa l'ha vinta, l'Europa League l'ha vinta quest'anno Benitez, che adesso allena il Napoli. Dunque, questi due allenatori, Mourinho e Guardiola, che sono i due più famosi del mondo, si trovano per le mani due squadre che peggio di come hanno fatto non possono fare, a mio parere. Mourinho ha già detto che però Boateng non gli interessa, perché dice Mourinho: non voglio fotomodelli, quest'anno ha cambiato più tagli di capelli che gol fatti. Questo lo vedremo. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire su ciò che volete di sport. Poi parleremo ovviamente anche di Formula 1, parleremo di tennis il giorno dopo la fine del Roland Garros. Tutti convocati. Dunque, prima del grande esperto di queste telefonate, o presunte tali, Carlo Laudisa, che è collegato con noi dalla Gazzetta dello Sport, io vorrei sentire Raffaele dalla provincia di Napoli, che magari non è d'accordo su Cavani. Pronto, buongiorno. No, io chiamo non su Cavani, perché non sono più a Napoli, quindi chiamo per calciomercato della Roma. Secondo lei il tecnico giusto può essere questo, diciamo, del Lille? E altrimenti, secondo lei, quale può essere l'allenatore giusto per la Roma? E poi volevo sapere sul basket se può essere la volta buona dello scudetto della CEA Roma. Questo, guardi, io mi limito a sperarlo, farò il tifo per Roma in questa finale, perché Siena ne ha vinti tanti, perché Roma lo meriterebbe per un sacco di motivi. Vedo Siena favorita. Per quanto riguarda il primo punto, bisognerebbe prima capire qual è la società Roma Calcio, poi di allenatori si può anche parlare. Oggi mi pare sia stato ufficializzato l'ingaggio di Benatia, tanto per cominciare. Carlo Laudisa, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Com'è la situazione alla Roma? Benatia ha preso, allenatore no? Sì, l'allenatore, siamo in attesa di Garcia del Lille, anche se c'è stato questo sondaggio anche per Bielsa. Carlo, scusami, fammi una curiosità, ma chi lo decide? Ma in questo momento decide Sabatini, che chiaramente deve consultarsi con la proprietà. Io credo che l'uscita di scena di Baldini, come hai ben accennato tu, sia anche il segnale di quel subbuglio che c'è in casa giallorossa, no? Le scelte degli allenatori precedenti non sono state felici, nonostante tutti i precedenti degli allenatori chiamati in causa facessero pensare bene. Provo a pensare che in questo momento la scelta stia cadendo su Garcia per un motivo semplicissimo: Bielsa, possiamo dire che lo Zeman sì. del Sud America, no? Sì. Quindi io credo che alla fine stia prevalendo una soluzione più pragmatica di un allenatore straniero che ha fatto bene in Francia, ma che certamente non ha dei dogmi con sé. Certo. E quindi la Roma quest'anno ha pagato evidentemente non la qualità di Zeman, che è fuori discussione, ma evidentemente il suo approccio con lo spogliatoio. Beh, qui si aprono tanti interrogativi legati proprio alla tua domanda di fondo: chi comanda nella Roma? Questo... mi pare il consiglio dei 10 assenti, come nel film di Fantozzi. Cioè, sì, questa multiproprietà, sì, tale è, multiproprietà certamente non è sinonimo di decisionismo e di managerialità, a dispetto poi del valore di chi ci sta lavorando, perché io credo che Baldini e Sabatini nella loro carriera abbiano fatto benissimo. No, certo. Certo, però... il problema è che se non c'è uno che ha il potere in mano e molti comandano e si prendono le decisioni per alzata di mano, compresa la parte americana, compreso l'amministratore delegato americano, Unicredit e il suo uomo, e poi i dirigenti che ci sono e l'allenatore che non c'è, diventa molto difficile. È una piazza esigente, giustamente. È una piazza esigente in cui molte mani si alzano e diventa molto difficile anche immaginare il futuro. Ma vorrei con te parlare di queste telefonate, a partire, sì, da quella del tra il City e il Milan. El Shaarawy per Tevez, più soldi al Milan. Galliani ha detto: Tevez mi piace, uno cattivo, uno grintoso, uno tosto, è pronto a ridursi uno stipendio che è di 8 milioni, non dimentichiamolo. Se non sbaglio, il Shaarawy ne prende 1,5. Ma comunque, sì, ma comunque, questa storia quanto è veritiera? No, la storia è tutta vera. È chiaro che oggi o stanotte Adriano Galliani abbia dovuto fare professione di realismo. Al momento lui non ha un'offerta ufficiale del City. Ci sono stati però tanti contatti in queste settimane che hanno dato la sensazione, più di una sensazione, che questa offerta è in arrivo. E il Milan si è già consultato, io credo, ai massimi livelli, nella persona del presidente Silvio Berlusconi, per evidentemente aprire la strada a tutte le soluzioni. La notizia che evidentemente fa scalpore è che sicuramente Stefano El Shaarawy non è più incedibile. Certo. A gennaio era incedibile perché erano già arrivate le offerte del City, era arrivata quella del Napoli di 30 milioni di euro, ma per tutta risposta il manager rossonero aveva prolungato e congruamente elevato l'ingaggio di El Shaarawy proprio per dare una risposta nei fatti a queste tentazioni. Ora però lo scenario è cambiato, credo anche per questi mesi del faraone, che non sono stati brillantissimi come i precedenti, sì, e questo evidentemente crea anche un problema tecnico, tattico, che penso abbia dei riflessi anche in nazionale, perché stiamo vedendo che la tanto attesa coppia Balotelli e Shaarawy non sta sfondando. Sì, tu dici che Shaarawy dopo il girone d'andata dice: va bene, io corro un po', però portare le borracce a Mario Balotelli ad ogni partita e fare il gregarione magari non me la sento. No, non credo sia questo il problema, perché Shaarawy non gli si può imputare nulla, lui ha continuato a correre, sì, forse con meno lucidità, certo, e quindi ha perso il senso della rete, ha perso la capacità di fare gol, questo, certo, perché non credo che sia tanto il problema del conteggio dei gol, perché poi sono arrivati quelli di Balotelli, per cui in un'economia dei risultati e quindi del gioco di squadra non si pretende certo che Shaarawy tenga i ritmi tenuti in giro d'andata, che sono stati eccezionali. Certo. Io credo che più che altro abbia posto gli interrogativi proprio le sue prestazioni, cioè il fatto che non si vedano i due negli scambi al limite dell'area. Sì. E questo, ma ripeto, sarebbe fuorviante anche dire che il Milan cede Shaarawy perché non è all'altezza. No, questa sarebbe follia, anche perché Berlusconi in quel comunicato ha detto chiaramente che ci sono delle priorità tecniche. Evidentemente queste due valutazioni rischiano, per chi vede l'addio a Shaarawy come un danno, di far combaciare il tutto. Certo. Però è una fase delicatissima in cui appunto manca ancora l'offerta ufficiale, anche se sembra che possa essere vicina a quei 40 milioni che evidentemente il Milan ha fissato come come valore del giocatore, no, curioso anche perché Berlusconi, insomma, uno dei suoi punti, dei suoi pallini è un attacco Berlusconi, un attacco El Shaarawy, Balotelli intoccabile. Senti Carlo, ma la Juventus avrà Jovetic e Higuain come oltre a Llorente, un attacco tutto nuovo? Ma questo è l'auspicio per il quale sta lavorando la Juventus, vedremo se sarà tale, perché la puntata di ieri a Madrid è incoraggiante, ma non basta a dire che sia stato soddisfacente, perché comunque il Real Madrid sì, verrà incontro sui pagamenti, potrà fare qualche sconticino, ma è altrettanto chiaro che la Juve, per potersi permettere questi lussi, qualche sacrificio dovrà farlo, quindi non è pensabile che la Juve abbia in cassa i circa 60 o 55 milioni che possono 52 che possono essere necessari per arrivare alla coppia di Higuain e Jovetic. Certo, certo. Ecco perché magari si profila in qualche cessione eccellente anche in casa bianconera, e qui c'è sempre il discorso economico che torna, no? Ti riferisci a Marchisio, di cui si parla molto, Vidal non credo che verrà ceduto, poi no. a quel punto Quagliarella, Matri, Giovinco, lo stesso Vucinic, tutti sul mercato. Io vedo un'analogia tra Juve e Milan, perché il confronto fra Conte e la proprietà nei mesi scorsi è andato sotto i riflettori, e da qui è emerso chiaramente che Conte si aspetta degli importanti innesti, e ha fatto capire che Vidal e Pogba sono incedibili, mentre è stato molto meno netto su Marchisio, e questo quindi spiega questo tipo di operazione. In casa rossonera, in maniera identica, Allegri si aspetta anche lui un congruo miglioramento della rosa generale, e da quello che può emergere evidentemente non ritiene il Shaarawy intoccabile. Quindi queste sono le due realtà che possiamo accomunare, no? Per chiudere, Carlo, Cavani, abbiamo sentito messaggi in bottiglia per Mourinho e per Pellegrini, che andrà ad allenare il City. Mi piacerebbe essere allenato da uno di questi due allenatori. L'arrivo di Benitez a Napoli non cambia molto la mia situazione, dice. Beh, questa è una storia che evidentemente avevamo già annusato da mesi, no? C'è questa clausola che protegge il Napoli, ma altrettanto evidente che Cavani e De Laurentiis stanno marciando in maniera solidale verso questa soluzione, quella di dargli l'opportunità di cambiare maglia alle condizioni migliori per tutti, e quindi queste parole di Cavani vanno in questa direzione. Comunque né il City né il Chelsea in questo momento sono ancora nelle condizioni a loro volta di soddisfare De Laurentiis in questo momento, per cui è una battaglia di lungo corso anche questa. Sì, sì, ne immagino anch'io. Dico, non sarà semplicissimo vendere Cavani per quelle cifre. Carlo, ti ringrazio, un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio e saluto a tutti. Buon lavoro a Carlo Laudisi, inviato della Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato, come sapete. 800 24 00 24 per le vostre voci, magari anche per i vostri sogni. Fabrizio, provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno, io sono un tifoso interista e vorrei sapere come sta procedendo la trattativa tra Moratti e Doyle. Leggendo i giornali pare che questo indonesiano sia un uomo influente con grandi possibilità economiche, e mi chiedo perché Moratti tergiversi così tanto. Da un punto di vista economico, per lui l'Inter non è più un affare, dato che ogni anno deve fare ricapitalizzazioni. Beh, per probabilmente non lo è mai stato. Non lo è mai stato. La squadra non ha prospettive, la dirigenza non è stata cambiata. Che futuro ha l'Inter se rimane in queste mani? Questo è difficile da immaginare. Certamente non è mai stato, dal punto di vista economico, strettamente economico, un affare per la famiglia Moratti. Certo è che questa, ne abbiamo parlato la settimana scorsa anche con chi sta seguendo dal Sole 24 Ore da vicino questa vicenda, e stanno cercando di spiegare a Moratti che un treno come questo, carico di quattrini, è in grado di alleggerirlo comunque dalla pressione economica che ha per debiti pregressi, ma non passerà più di questa volta. Secondo le ultime, insomma, si balla ovviamente sul pacchetto di maggioranza. Ora si dice che Toir vorrebbe il 55%, Moratti è disposto a cedere solo 20-25, ma nessun imprenditore, nessuno al mondo acquista un pacchetto di minoranza investendo dei quattrini per far comandare qualcun altro. Dunque io non credo che l'affare possa essere concluso su queste cifre. Io penso che sarà o tutto o niente, o l'Inter passerà di mano o l'Inter resterà a Moratti. Ci fermiamo per la borsa, poi vi aspetto, 800 24 0024 per la vostra voce e, come ho detto, magari per i vostri sogni. Cavani è uno spreco a Napoli, diciamo le cose come stanno, perché uno che segna ogni 3-4 palle, sì, massimo, che ha, riesce a tirarne apposta un paio, almeno una ne segna, mi pare che è proprio sprecata a Napoli. Tutti convocati. Fatemi il piacere, figuratevi se esiste la censura qui a Tutti convocati. 800 24 0024, ma anche messaggi 349 238 6666. Perché non dovrei leggere un messaggio come questo? Come fa a dire che Balotelli è un gran giocatore, tatticamente è pessimo, questo basta e avanza, è solo sopravvalutato? Tutto qui, non lo leggerò mai. Ma perché non dovrei leggerlo? Non corrisponde al mio pensiero, ma la censura non esiste. Secondo me Balotelli è in potenza uno dei più forti attaccanti del mondo. Si tratta di tradurre la potenza, si tratta di tradurre la potenza in elemento fattuale sul campo. Si tratta di vedere se arriverà con la testa ad essere il più forte attaccante del mondo. Poi la tattica si impara, poi fa quello che deve fare, poi non è nemmeno così tatticamente ignorante come qualcuno pensa. Magari lo sopravvaluto io, ma come me molti altri, quindi non lo so, vedremo chi ha ragione. C'è chi scrive che mi saluta Nadal, fenomeno puro, altro che Djokovic, scrive Gianni. In questo caso è andata bene a Nadal, che ha timbrato un record, cioè quello delle 8 vittorie in un torneo dello Slam. Io ho semplicemente detto che avrei fatto il tifo per Djokovic. Posso, o mi impedite anche di fare il tifo nel tennis? Se non posso dichiarare nemmeno questo, ditemelo, che sto zitto e mi limito a leggere le veline. 800 24 0024, le veline non quelle che mi arrivano, ma le veline quelle vere, leggo quello che hanno scritto sui vestiti, insomma. Allora, Filippo, provincia di Varese. Buongiorno dottor Carlo, buongiorno. Buongiorno. Ma una riflessione sui costi dei vari giocatori, non so, in un momento di crisi finanziaria come questa mi sembrano un tantino fuori luogo, mi correggo, cioè non sto facendo una questione morale, credo che siano al di sotto di quello che poi si legge sui giornali o si sente per radio o per televisione. Non so, io non, 100 milioni mi sembra di aver sentito per Bale, 60 per Cavani, con tutto il rispetto per Cavani, per Bale, l'anno scorso per Ibra e Thiago Silva, mi sembrano un tantino fuori luogo per quelle che sono poi le possibilità delle varie squadre di rientrare dagli investimenti. Non so, ho questo sento, cioè, considero una, ma forse una premessa. No, ma lei ha ragione. Cioè, no, ma anche secondo me lei ha ragione, ma qui stiamo parlando di un mercato ristretto, come in borsa, no? Cioè, c'è un mercato ristretto cui partecipano, mettiamo un tavolo di poker cui partecipano soltanto poche squadre, partecipano soltanto pochi individui, partecipano soltanto gli sceicchi che stanno al City, i russi che stanno al Monaco, partecipa ancora Abramovic, partecipa ancora o tenta di farlo il Real Madrid, partecipa il Bayern di Monaco, le altre giocano agli altri tavoli insieme al Pueblo, quindi sa, queste sono quotazioni che ovviamente 4-5 squadre possono permettersi. Non a caso lo stesso Cavani ha detto: mi piacerebbe giocare per Mourinho o per Pellegrini, cioè per l'attuale allenatore del Chelsea o per quello che verrà al Manchester City, perché tali somme possono essere spese soltanto da pochissimi noti, e quindi è chiaro che sono quotazioni irreali per tutti quelli che giocano agli altri tavoli. Questi invece possono permettersi grosso modo quello che vogliono, quindi la situazione è semplicemente questa. Detto questo, mi sembra che ci sia un eccesso di offerta rispetto alla domanda, perché Io credo che per il Napoli non sarà facile ottenere la clausola rescissoria che è stata fissata in 60 milioni di euro, perché la concorrenza, perché i giocatori, i top player a quel livello sono, stanno diventando in numero maggiore rispetto ai possibili acquirenti, e questo è un fenomeno abbastanza interessante. Dunque, Andrea da Aosta, cosa dici? Andrea da Aosta, lo sentiamo subito? Andrea, buongiorno. Buongiorno, tanto così introduciamo l'argomento. Dica. Volevo parlare di Formula 1. Lo faremo tra pochissimo. Dica. Ok. Ma io volevo semplicemente sapere un vostro parere sul Gran Premio di ieri. Mi sembra che Vettel ormai sia andato in fuga e che purtroppo anche quest'anno noi ferraristi rimarremo a bocca asciutta. Mm. Non le sembra un po' presto per dirlo? Un terzo del campionato? No, perché, vista come è andata la gara di ieri, mi sembra che Vettel ha fatto giro veloce, ha dominato per tutte le prove, la gara l'ha portata a casa Marziano con assoluto. Tanta tranquillità. Sì, sì, Marziano. Ieri Marziano assoluto, però non dimentichiamo che insomma c'è pista e pista, c'è un'estate di mezzo che spesso compiglia e scompagina le carte, come è successo l'anno scorso, però per essere più precisi e puntuali, allora sentiamo un ospite subito dopo questo flashback. You won the Canadian Grand Prix. Fantastic, makes up for two years ago. Yes, we won Canada. Thank you, boys. Thank you. Il problema è che ha vinto Vettel, quindi non sono contento, ma devo dire che Fernando ha fatto una gara straordinaria, eccezionale, era molto difficile, è chiaro che abbiamo pagato il prezzo di partire indietro. E poi oggi abbiamo visto che è molto diverso lottare con i top che lottano anche per il campionato, perché si tengono sempre quel metro di margine che riesce a lottare con un po' più di sicurezza. Caro mio amico Leo Turrini di Ciao carissimo, come andiamo? Andiamo, che avrai sentito la canzone Fly Away. Ho sentito, la tra Red l'altro Bull, però io ha non messo ho capito, le ali. Genta, si dica? Chi tra noi due è Enrico Letta e chi Angelino Alfano? Sì. Perché chiaramente io e te rappresentiamo le larghe intese radiofoniche. Sì. Che nel caso delle Ferrari, come direbbe Matteo Renzi, rischiano di diventare le lunghe attese, perché Fly Away è tornato Harry Potter, hai capito? Formidabile al sabato, accompagnato, la mattina è tornata magica, la domenica, e insomma non è un risultato eclatante da un punto di vista rosso fuoco Maranello. No, non lo è, però Alonso guerriero, Vettel marziano, questa è la spremuta del Canada. Ma sai, Alonso ormai si ciba solo di letture dei samurai, se tu leggi i suoi Twitter, no? Sembra disperato. Ma insomma, sembra un adepto di Akira Kurosawa, il grandissimo regista cinematografico. C'è quel famoso film di Kurosawa, no? Credo fosse Ram, che tu, un episodio visto da 7 persone diverse, dà luogo a 7 verità diverse. Ora è chiaro che se uno si mette dal punto di vista di Fernando, parti sesto, riesci a rimontare, arrivi secondo, fai dei bei sorpassi, è un risultato, come ha detto lui, che vale una vittoria, giusto? Sì. Però il problema è che la vittoria vera l'ha presa Harry Potter, il quale Harry Potter, noto l'anagrafe come Sebastian Vettel, ha questa capacità straordinaria che non sbaglia mai. Questo qui, guarda, veramente, credimi caro, è il clone di Schumi, o io sono un po' più anziano di te, di Senna. Se ha strada libera davanti, questo prende, va e lo rivedi sul podio. Amore, citi Senna, a me vengono i brividi e quindi aspetto. Se mi dici di Schumacher, ok, di Senna ti seguo, seguo tra un po', Allora, aspetta, ti seguo tra un po' con tutto il bene che ti voglio, voglio spiegarmi con il mio Enrico Letta che sei tu. Sì. Allora, io ero molto amico di Ayrton, uno dei ricordi più belli della mia sgangherata carriera, la foto che facemmo assieme a Imola nel 1990 con la sua dedica. Quello che Senna aveva di impressionante era in assoluto, tra tantissime qualità, la capacità di essere folgorante sul giro secco in qualificata. Tanto è vero che quando se ne andò aveva l'attivo 65 pole position, sì, un numero mostruoso che Schumi aveva anche 10 anni di carriera per superarlo. Ecco, Vettel al sabato, in certe situazioni te lo ricordo, perché guarda che sabato a Montreal, questo Harry Potter dei militari, ha fatto una cosa in qualifica veramente straordinaria. Sì, questo è vero. Cioè, gli va riconosciuto, anche per noi, lo dico noi ferraristi, parlo sì, per sì, me, sì, non so sì, perché sì, ti sì, sì. O usciamo da questo, che comunque Alonso è nettamente più forte di Vettel, oppure ci restiamo in mezzo. Alonso, secondo me, vale Vettel, ma non è di un'altra categoria. E il problema è che Vettel ha di nuovo una macchina che Alonso non ha. Certo, allora Leo, io adesso ti chiedo un attimo di pazienza e poi, porca vigliacca, ti voglio chiedere una cosa. Allora, ma per il Presidente del Consiglio? No, ma punto delle primo. Delle larghe intese, delle lunghe attese. Adesso faccio la voce grossa e dico, punto primo, ma possibile che in qualifica la Ferrari vada così piano ormai storicamente? Punto secondo, dobbiamo già calare le braghe, come mi sento quest'aria depressa di oggi, e dire dopo un terzo che il mondiale è dei bibitari e di Harry Potter? Tutti convocati. Allora, prima parlo con voi, ringrazio Tommaso su Twitter che scrive: non c'è cosa migliore che svegliarsi dopo il turno di notte e ascoltare tutti convocati, e lo ringrazio tanto. Però, o siete tutti a Formentera a fare bisboccia, oppure mancano delle telefonate qui, ne abbiamo tante, ma non tante quanto vorrei, di lunedì, 800 24 00 24, e svegliatevi e non nascondetevi dietro un dito, dietro la cornetta di un telefono. Leo Turrini non si è mai nascosto, e allora gli chiedo, le due domande che ho fatto prima. Prego. Ferrari sempre così giù, ormai storicamente nelle qualifiche, ormai inaccettabile. E poi, caro Leo, vista la depressione circolante anche tra gli ascoltatori che sono intervenuti prima, un terzo di campionato che si fa? Caliamo le braghe? Rosse? No, allora, comincio dalla seconda domanda, premettendo che io quando vengo convocato da Carlo Genta mi sento come Benigni, vorrei mettermi tutto in nudo per la felicità, hai capito? Di partecipare a queste conversazioni radiofoniche. Allora, parto dalla seconda domanda. No, rassegnati assolutamente no. Ah, ecco. Ci sono ancora 12 Gran Premi. Io vorrei ricordare ai pessimisti che l'anno scorso, non ricordo più se prima del Belgio, dopo Monza, comunque Alonso, dopo Monza, aveva 44 punti di vantaggio su Vettel, c'erano ancora 7 corse e sappiamo purtroppo come è finito. Certo. Quindi a meno 36, che è il distacco del samurai Fernando dall'Harry Potter dei bibitari, fa molto freddo, è una temperatura groenlandese, però si può ancora fare. Ecco. Questo ce lo dobbiamo dire con molta serenità. Questo sì, ci invece mancherebbe. Il vero quesito è il primo. Allora, la Red Bull è riuscita, almeno per quanto abbiamo visto ieri, a risolvere nell'arco di 7 Gran Premi un grande problema che la penalizzava a inizio stagione, che era l'usura pneumatica alla distanza, no? Tu hai visto che invece ieri Vettel è partito volando, è arrivato volando, sì, e non ha avuto nessuna difficoltà, perché hanno ritoccato la macchina, hanno trovato le soluzioni. Vedremo poi dall'Inghilterra prossima tappa se sono stati aiutati dal particolare tracciato di Montreal o se invece davvero si sono sistemati per l'intera stagione. Il guaio è che invece la Ferrari ha ormai da anni, come registravi tu, questo problema sempre di gomma che non riesce a mandare in temperatura per il giro secco in qualifica. Questo significa che quasi sempre Alonso deve partire da dietro, dalla terza fila. Cioè, voglio dire, il dubbio che ti rimane dopo la gara di ieri qual è? Che Alonso, partito sesto, è arrivato secondo. Se fosse stato in prima fila accanto a Vettel, io non dico che avrebbe vinto, perché manca la controprova, ma certamente avrebbe reso più dura la vita al tedesco. E d'altra parte, scusami, prego, prego. Leo mio caro, Maurizio da Bologna giustamente scrive che negli ultimi giri Alonso faceva gli stessi tempi di Vettel. Sì, però vedi, anche questo, io vorrei che chi adora Carlo Gente si rendesse conto che se un pilota è davanti dall'inizio, almeno io ho avuto questa sensazione, Vettel gli ultimi 10 giri, al di là dei tempi cronometrici che ovviamente stai vuotando il serbatoio, la macchina sì, più leggera, cioè, li ha fatti succhiando una vita, ha smesso di spingere come un ossesso, quindi sono delle valutazioni secondo me da rimandare. La vera risposta la deve dare tecnologicamente la Ferrari, superando questo disagio al sabato. Qui c'è la febbre del sabato sera in Ferrari, che è molto alta, ma non è una febbre da discoteca, è una febbre di chi ha un focolaio, un'infezione, e non riesce a venirne fuori. Posso aggiungere una cosa su Massa? Certo. Grazie. Sì, perché voglio dire, ne parliamo sempre male. Tanto dopo l'incidente di sabato, io avevo fatto un titolo, no? Terno secco sulla ruota di Massa, perché per la terza volta di fila si era stampato, no? Prova a Monte Carlo, gara a Monte Carlo, sabato in casa, ho detto oddio, se fa poker alla domenica lì all'isola di Notre Dame siamo rovinati. Invece guardate, quasi nessuno si è fatto caso perché partiva dal fondo. Felipe ieri ha fatto una grande gara, vero. È arrivato ottavo da combattente. Io ho visto anche quasi un orgoglio ritrovato quando alla fine si è esposto anche al rischio pur di scavalcare Raikkonen e prendere una posizione in più nell'ordine d'arrivo. Questa è una buona cosa anche di prospettiva per la squadra, perché vuol dire che di piloti, se poi di differente dimensione, di nuovo la Ferrari ne ha due. E allora, caro Leo, facciamoci coraggio urlando nel bosco e risentiamoci presto. Ma naturalmente, ti ho detto, io quando voi chiamate mi metto tutto in nudo, sto al telefono con voi, per me questa era più una trasmissione, voglio dire, dai tempi di chiamate a Roma 3-1-3-1, capito? Che c'era Bocca Gatta che non l'ha cinto a caso, perché la trasmissione, secondo la leggenda, che consentì all'avvocato Montezemolo, all'epoca giovanissimo, di conoscere Enzo Ferrari e di avviare la sua stratosferica carriera. Naturalmente questa è tutta una balla, ma ve la racconterò, la vera storia di Bocca Gatta, Montezemolo e Enzo Ferrari, quando mi richiami. Alla prossima puntata. Io invece conosco te e mi basta, e sono felice così, grazie a Leo Turrini. Dunque, adesso abbiamo Stefano da Modena e siamo quasi sulla bandiera a scacchi. Pronto? Salve Stefano. Buongiorno, io sono un grande tifoso di Djokovic, ma mi inchino davanti alla strapotenza di Nadal sulla terra rossa. Volevo solo fare una battuta su Nadal, perché il suo modo quando batte, toccatina dietro, toccatina davanti, spalla destra, spalla sinistra, orecchio, naso, orecchio, naso, orecchio ancora, mi viene il sospetto che voglia lanciare il nuovo Tuca Tuca, una nuova versione. Nuovo ballo, serve la musica, eh? Sì, serve solo la colonna sonora e poi ci siamo, no? con toccatina toccatina di... sapete come i tennisti hanno tutti questi vezzi, queste manie, no? per trovare la concentrazione, per cui hanno tutti queste loro piccole scaramanzie. Ci inchiniamo davanti, inchiniamoci insieme davanti a Nadal, che è stato straordinario, e per Djokovic sarà naturalmente per la prossima volta, non smetteremo di fare il tifo per lui. Che cosa dobbiamo fare? Mica cambiamo bandiera come fanno certi. Allora, sentiamo insieme, volevamo sentire insieme Corrado Barazzuti sul finale su questo Roland Garros, che purtroppo ci ha detto male anche per il doppio a Rani Vinci, sconfitte, ma comunque un altro grande torneo per loro, sia nel doppio che nel singolare. Saranno tutti argomenti su cui tornare nelle prossime edizioni di Tutti Convocati. Intanto vi dico, per completare il quadro delle notizie, chiudo con Rani Vinci, dicendovi che nella notte Miami ha superato San Antonio in gara 2 di finale NBA 104-83, siamo sull'1-1, ma tutto è aperto. Errani Vinci, grazie a Franco Piantanita, autore di questo programma, e a Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2 qui.